Allora, buttato, tipo, perché più su però mi pare nulla, però non le abbono se lo paga a pago. E un attimo non la buttare a pulire. Bene, bene. Avanti, prego, prego. Cappa. Lui già me da parte. Ascolta, un quattro non lo potresti dare. La radio insomma è buona. La radio ce l'hai cracchiante. Ah, va bene. Ok. Ho visto che c'era anche Gio Maria. Gio Maria, sì, sì. Gio Maria ha fatto un attimo di bianco. Che dici? Solo. Ehi, su per giù. non so se ti sta confondendo, comunque sono Luigi, il figlio di principessa. Non mi sono sbagliato, dai. Non mi sono sbagliato, infatti, perché c'ho questa salute in casa, come di corpo e così via, capito? Non mi sono sbagliato, lì. Ah, va bene, no, pensavo che ti stavi confondendo con qualcun altro. No, no, assolutamente, assolutamente. È inconfondibile la tua modulazione, siccome ti conosco anche verticale, per cui la voce, il timbro di voce è quella lì, ok? Ok, va bene, dai. Scusate, distruggo, riprendetela. Siete male prossime. Ok, già me ne cavo di cassetto, non ti preoccupare. Mi scuso. Ok, ciao, saluto a casa, alle prossime. Torì, riprendi e fai tra quei break e break ogni tanto. Sta breccando quello lì. Avanti, brecco, brecco. Aspetta, Tony. Ciao, vuoi entrare, avanti. Ciao, Marì. Chi è, chi è? Claudio, sono in macchina. Ciao, Tonino, ciao a tutti, buongiorno. A Franco California, hai sentito? No, qua, non l'ho sentito. Come cambia la radio, Cazzo, da casa a Pedro, come cambia? No, non ho sentito per niente, dimmi niente, se per un telefono su lato, Michio. Boh, non è raggiungibile, potrebbe essere effetto. Ti la piglia in saccoccia, guarda, dove mi telefono già in va? Ah, si è peccionato qua, non ho sentito su ma niente, anzi, sono cazzato a cadere. Che mi dà la cosa, non vera, non era arrivato ancora, non mi sono potuto rendere indietro, e qua. A chiudere la morire, si è affacciata, ha detto, che farei da pigliarsi? E non ho sentito su ma niente. Capito, sarà picchiendo comunque, claro. Ciao, prego, prego. Non lo so perché sono riuscito poco fa a mettermi in contatto, però è caduta la linea e praticamente non riesco più a parlarci. Non lo so. Non lo so che fine ha fatto stamattina. Davvero, veramente. Non lo so. Ho chiamato anche alla sua signora, ma c'è il telefono spento anche lì. Va bene, Tonino, se mi ascolti, riprendi, K. Ti ascolto, ciao Cla, ti ascolto abbastanza bene, Santiago 8 qua, Radio 5. Sì, porca miseria, sono, guarda, sono qua in piazza Sacrocuore qui, in mezzo ai palazzi. Va bene, scendo, ci sentiamo dopo, riprendi Giovanni. Ok, saluta la Cumbricola, allora, buon brasiliano, o buona bionda, diciamo. Ciao, ci sentiamo qua. Claudio! Claudio! Chi è? Giovanni Vincenzo, com'è la radio? Se lo stavo riconosciuto, una bomba, Ok, ci sentiamo più tardi. Riprendete, la buongiorno Giovanni, ciao Tonino. A quanto ce l'hai, Giovanni? A 5. Prova a metterla a 6. Adesso è a 6. Lascialo sì, lascia. Una bomba, una saetta. Ok, ci sentiamo più tardi. Stiamo cercando di ritracciare il sembrato del branco. Tutti spenti c'erano i telefonini. Ma che cazzo ho detto? Ci vediamo domenica mattina. Ieri ci siamo salutati, ho detto. Ci vediamo domenica mattina, 10:30. Se vuoi arrivare, ci ammende, non mi rispondi. Alla radio non c'è, cosa vuoi dire? Vabbè. Sentiamo Giovanni, se vuoi il caffè sono qua, già lo sai Roma, ciao. Non posso uscire qua perché c'è gente qua. E Franco, non c'è, sono tutti in conferenza. Vabbè, scusate per questo, ciao Giovanni, ciao Torino, riprendete va. Ciao Giovanni. Ehi, Natali. A Caracca. Avvicinati che ti offro il caffè, ciao. Torino, un attimino, il QRX, riprendi tu. Torino, venuta gente, devo per forza rimanere il QRX. Fai una mezz'oretta, ci sentiamo qui, su questo canale, va bene Torino? Ok, ciao Giovanni, a più tardi allora, non problema, attenda. Ok, te l'ho detto, ci vengono, ma mi sentito, vabbè, ci sentiamo con una mezz'oretta Torino, ciao. Ciao Giovanni.